No, è che sapevo bene che cosa avrei fatto quel pomeriggio. Mi sarei fatto un regalo. Qualcosa a cui anelavo da tempo. Qualcosa che desideravo come da ragazzi si desidera qualcosa. Senza riflessioni, senza calcoli, senza valutazioni obiettive. Solo perché la pancia lo diceva. Volevo comprarmi una moto. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 di un lunedì qualunque, un lunedì 18 aprile del 2011. Questa è Radio 24. Io invece sono Matteo Caccia e sono qui. Ogni tanto capita. E quando capita, di solito capita senza un motivo. E come tutte le cose che capitano senza un motivo, ce le gustiamo di più. A volte capita che ci facciamo un regalo, senza un motivo preciso. Non è un premio, non è neanche una ricompensa. Mi ricordo quando facevo l'università, avevo delle compagne che se e solo se prendevano un bel voto all'esame, si concedevano un paio di scarpe o un libro. Ho amici che usano i regali a se stessi come una sorta di obiettivo da raggiungere per fare al meglio la cosa che stanno facendo. Oggi però si parla di un'altra cosa. Si parla di regali gratuiti. Di quelle cose che capita di regalarci senza una giustificazione. Non perché siamo stati bravi o ci siamo comportati bene, perché era giusto farsi quel regalo o perché avevamo vinto qualcosa. No, così. Gratis. Il regalo ingiustificato ha qualcosa di rivoluzionario. Combatte il senso di colpa alle radici, no? Ci mette a nudo di fronte a un desiderio che è privo di fondamento, che non ha giustificazione economica e tantomeno razionale. Alzarsi la mattina e decidere di comprarsi, che sai, una camicia, un DVD, una vacanza, un divano, una moto, un corso di pittura, una casa, un anello che nessuno ci aveva ancora regalato, o un libro che ci avevano donato ma non avevamo mai letto. Ecco, questo non è solo un modo per prendersi cura di sé, secondo me. È soprattutto un gesto che va contro il senso comune. Stravolge i piani a lungo termine e inserisce una piccola variabile inaspettata. Un oggetto, un tempo, uno spazio nuovo, che ci siamo concessi così, senza un perché. Ci sono momenti che più di altri, di solito, necessitano di un autoregalo. Io non lo so in che momento voi vi troviate. Se però oggi, stamattina, un'ora fa, ma anche ieri o in questi ultimi giorni siete entrati in un negozio, in un'agenzia viaggi, oppure siete entrati in un sito internet e vi siete fatti un regalo, raccontatemelo. Io sono qui. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Il primo è per telefonare, il secondo è per mandare i messaggi. Altrimenti ogni tanto qualcuno telefona al 349 eccetera eccetera e poi sullo schermo appare scritto: ho chiamato, richiamami. No. 800 24 0024. Avete capito di cosa parlo, no? È abbastanza semplice. Quei regali ingiustificati. Poi in realtà si parlava prima con Tiziano del fatto che alla fine un po' tutti i regali sono giustificati, nel senso che c'è un motivo. Di solito la verità è che c'è un buco da riempire, c'è una specie di vuoto che si crea e che si cerca di colmare attraverso un pensiero, un regalo, magari no, magari una cosa anche più grande, una cosa tipo una motocicletta. Devo dire che dai messaggi che sono arrivati sul profilo Facebook Matteo Caccia Io Sono Qui, sono molti gli uomini, manco a dirlo, che danno fondo ai loro desideri attraverso la motocicletta. Marco: mi sono comprato una Ducati multistrada, che non so quale sia, ma è quella dove Laura Faggin dice puoi andarci dovunque. Puoi andarci su multistrade, su diverse strade. Poi ce n'era un altro che si era comprato Little Mess. Ragazzi, datevi dei nomi sereni su Facebook, non dei nomi a caso. Vabbè, non so come si chiama. Una seconda bicicletta, una bicicletta da cicloturismo, con tanto di borse. Proprio oggi ho iniziato a pedalare, il mio primo viaggio sulle due ruote da Milano a Monte Catini Terme. Ecco, questo diciamo è un gradino sotto la moto. E poi tecnologia, Susanna, l'iPad 2. E ancora c'è un altro iPad 2. Poi Liliana: avevo vinto un pochino di soldi al gratta e vinci e mi sono preso un orologio. No, no, non vale così. Il regalo, cioè, se c'hai dei soldi in più e ti compri un regalo, non vale. Devi proprio partire da zero e dire: devo comprarmi un regalo, ho bisogno di qualcosa che ingiustificatamente, irrazionalmente mi dia una sensazione di benessere, e te lo vai a comprare, non perché hai dei soldi. Marco: un bellissimo dondolo per tutta la famiglia. Questa è al limite, perché la famiglia è un regalo che fai anche agli altri. Qua si parla proprio di regali solo a se stessi. 800240024. Soprattutto meglio se non è utile. Come Yuri, mi sono regalato l'ebook reader. È talmente inutile l'ebook reader che lui scrive: ma come ha potuto farne a meno fino ad ora? È una rivoluzione. Domenico è magnifico. Mi sono regalato un notebook che a ben vedere non era di primaria importanza. Nessun computer è mai di primaria importanza, se ne hai già uno. Per rendere più dolce la cosa, e qui subentra il senso di colpa, e soprattutto per rendere l'acquisto più digeribile a mia moglie, a lei ho regalato un cellulare. Ma che metodo è questo? Ma che metodo è? Mi può ritornare a casa e che ti dicesse: dove l'hai preso? Non ti serviva, ci pagavamo il mutuo. Loredana, un viaggio di 4 giorni con un gruppo che condivide la mia passione, la fotografia. Fabio, ho preso un elicottero. Aspetta, no. Un elicottero radiocomandato a 4 canali, va su, giù, gira su se stesso, va avanti e indietro, ha il giroscopio e le luci per il volo notturno. Unico difetto, l'autonomia: 10 minuti di volo e poi da caricare. Fabio, sei il mio idolo, esattamente questo intendo, una roba totalmente inutile. 800240024. Intanto Laura mi scrive che cos'è il multistrada. È tipo Gran Turismo. Gnucco. Ah no, Gnucco sono io. Mi hai scritto Gnucco? Sì. Grazie. 800240024. Ah, giusto, mi stavo dimenticando. Oggi è il 18 di aprile. Tra meno di un mese c'è il Salone del Libro a Torino. Radio 24 è là e ci saremo anche noi. Venerdì 13 maggio alle ore 16 siamo in diretta dallo stand di Radio 24 al Salone del Libro. Ve la butto lì, segnatevela e più tardi vi spiego che cosa facciamo, ma anche che cosa mi piacerebbe che faceste voi. Più tardi però. 349-238-6666. Io avevo un grosso buco da riempire questo fine settimana e l'ho riempito così. Facciamo un passo indietro però. Facciamo un piccolo passo indietro. Perché vi devo fare una confessione. Che so che sembra paradossale, però non lo è. Forse proprio perché è paradossale, è una confessione che sento di dovervi fare. Il fatto è che forse non mi va più. Forse non mi va più di raccontare tutti i fatti miei davanti a un microfono. Per certi versi è sempre stata una cosa quasi terapeutica, un po' come quando da adolescenti si sente il bisogno di tenere un diario per scaricare su qualcosa che non sia solo la nostra coscienza quella sensazione di pesantezza che proviamo dopo un rifiuto, ad esempio, o dopo una sconfitta. Però da qualche giorno non è più così, e in alcuni momenti in particolare non è così. Ci sono cose che preferirei non raccontare, perché sono talmente intime che nemmeno io so da dove arrivano e dove vanno. Non so ancora decifrarle, non so valutarle, non so neanche dargli un nome, e quindi non posso dargli una voce. E quello che è successo sabato, ad esempio, non è una cosa che riesco a decodificare. La sensazione di accompagnare una persona tanto vicina in un posto da cui la vedrai partire per andare tanto lontana. Non so nemmeno perché, anche adesso, non riesco a realizzare che cosa sia successo. Cioè, non riesco a valutare questa lontananza. Sabato Natalia è partita. Partiva dalla sede dell'ONG per cui aveva lavorato e partiva insieme a un'altra persona con cui andava a fare questo lavoro. Stravia 6 mesi. Probabilmente non potrà rientrare e tantomeno io potrò andare a trovarla. Sì, certo, c'è Skype, si possono fare delle cose che quando mio nonno è andato in Libia nel 43 mia nonna manco immaginava. Però è comunque molte migliaia di chilometri lontano da qui. Il nostro motto per tutta la settimana e soprattutto sabato mattina è stato: facciamo finta di niente. Lei ha preparato la sua valigia venerdì, mentre io non c'ero, e poi deve averla messa in una parte della casa che io non frequento, perché non l'ho vista da nessuna parte. Venerdì sera siamo andati a cena con amici, e c'è stato solo un accenno alla partenza, ma si è parlato soprattutto di aerei e della paura di volare alla fine. Sabato mattina lei aveva appuntamento alle 11, quindi abbiamo fatto colazione leggendo i giornali, come se niente fosse. Lei era vestita come sempre, nemmeno un elemento che mi facesse pensare che di lì a poco non sarebbe più stata lì con me. Siamo tornati a casa, ho guardato l'ora e ho detto: forse è il caso di andare. Ho preso le chiavi della macchina e lei è spuntata dalla camera da letto con una valigia di dimensioni abnormi. Probabilmente l'aveva mimetizzata come un marine nella giungla, perché non vederla era veramente impossibile. L'ho portata giù dalle scale e ci ho quasi rimesso la mia arnia del disco. In auto l'argomento di conversazione è stata la primavera, che finalmente era arrivata, e poi il passaporto, che forse non aveva una marca da bollo che dovrebbe essere rinnovata ogni anno, forse, ma che in fondo non è così necessaria da non farti partire, insomma dipende dal tizio che sta al controllo passaporti. In 10 minuti siamo arrivati a destinazione e lì il nostro livello di fare finta di niente ha raggiunto il suo apice. Ho scaricato la valigia, ho salutato quelle 2 o 3 persone che erano là davanti. Sono tornato in auto a prendere il giubbotto che lei si era dimenticata sul sedile posteriore e lei mi ha seguito. Mi ha chiesto cosa avrei fatto nel pomeriggio. Io ho detto che non lo sapevo, anche se in realtà lo sapevo molto bene. Lei mi ha detto di stare attento e io le ho detto di stare attenta a lei. Mi ha detto che magari, visto che era lontana, iniziava ad ascoltare il programma in podcast, così almeno sentiva la mia voce. Io le ho detto che non c'era bisogno, che c'era Skype. E poi lì qualcuno l'ha chiamata dicendo che era tardi. Ci siamo baciati come se il prossimo bacio fosse lì a portata di mano. Le ho detto ciao, lei mi ha detto ciao. E senza girarmi, sono salito in macchina e sono partito. I was a quick, wet boy, diving too deep for coins, all of your street light eyes, wide on my plastic toys. Then when the cops closed the fair, I cut my long baby hair and stole. Poi io sapevo bene cosa avrei fatto quel pomeriggio. Mi sarei fatto un regalo. Dovevo riempire. Dovevo riempire il tempo e lo spazio. Questa era l'unica cosa su cui non avevo fatto finta di niente. Era da un po' che pensavo cosa avrei fatto per provare a non lasciare vuoto quello spazio che mi sarebbe aperto davanti, a partire dalle 11 di sabato mattina. Era da un po' che ci pensavo e avevo trovato la soluzione. Era una soluzione che sapevo essere stupida, ovviamente, da respiro brevissimo, ma non ero stato capace di crearmene un'altra. Dovevo farmi un regalo, qualcosa a cui anelavo da tempo, qualcosa che desiderassi come da ragazzini si desidera qualcosa, senza riflessioni, senza calcoli, senza valutazione obiettiva, solo perché la pancia lo diceva. Dovevo comprarmi una moto. Io giro in Vespa da anni per la città, però mi è rimasta sullo stomaco la moto che avevo a 20 anni, la moto con cui andavo nelle campagne fuori dal mio paese. Una moto poco adatta all'asfalto e proprio per quello ancora più irrazionalmente desiderabile. Una di quelle moto che le donne guardano stranite e gli uomini invece commentano con un «Ma che cosa te ne fai in città?». L'avevo già vista su un annuncio. Era usata ma tenuta bene, con le gomme da fuoristrada e l'inconfondibile colore arancione. Avevo chiamato il concessionario, ero andato di nascosto e sì, lo ammetto, avevo anche lasciato un acconto per fermarla. Avevo chiamato il mio assicuratore e sabato pomeriggio potevo andare a ritirarla. Non l'avevo detto a nessuno, non a Nathalie, non ai miei, nemmeno agli amici. Era una cosa mia che un po' mi imbarazzava, proprio perché era così priva di ragione. perché non mi serviva una seconda moto, perché non l'avrei potuta usare per il motivo per cui era stata ideata, e forse perché in fondo era pure pericolosa. Eppure c'era evidentemente una piccola parte di me che era più forte di tutto il resto. Sono tornato a casa, ho preso il casco e sono andato in stazione. Ho fatto un biglietto per un regionale diretto a Como che fermava in una stazione che si chiama Casorate Sempione. In treno ho ricevuto un messaggio di Natalie che si stava imbarcando e ho cercato anche lì di non farci caso. Di non fare caso a quella morsa allo stomaco che era dovuta sia alla lontananza sia al timore di quella cosa nuova, quella a cui stavo andando incontro. Una cosa nuova che entrava nella mia vita e che, come tutte le cose nuove, hanno un alone di eccitazione e di paura che le circonda. Le case nuove, le persone nuove, i lavori nuovi, le moto nuove. Mi domandavo se sarei stato in grado di guidarla, se forse non avevo esagerato, se non avevo speso troppi soldi per un capriccio. Nel frattempo sono arrivato al concessionario che era pieno di quelle persone, avete presente, quelle persone che il sabato e la domenica si vestono con giubbotti, tute di pelle, guanti tecnici e vanno a fare lunghi giri sul lago. I motociclisti. Ecco, io non sono un motociclista, non saprei mai mettere le mani in un motore e nemmeno valutare qual è il migliore pneumatico da montare. Sapevo semplicemente che avrei usato la moto per venire in radio, per andare al cinema, per andare a prendere il pane. E non mi interessava se loro la usavano solo per fare i ride nel deserto o nelle piste piene di fango. Ho staccato l'assegno, controllato i documenti e poi il figlio del proprietario è andato a prendermela. È arrivato da una salita che spuntava dall'officina sotto al negozio. Il rumore era meno forte di quello che immaginavo, più ovattato, meno aggressivo. Lui mi ha mostrato la batteria, il controllo dell'olio e le spie del display. Mi ha fatto vedere dove era il serbatoio e mi ha detto di fare benzina, che era quasi a secco. E poi, consegnandomi le chiavi, mi ha guardato e mi ha detto: divertiti, ma mi raccomando, pianino, eh? Yes, I am Mother Nature's son, and I'm the only one. I do what I want and I want what I see. It only happened to me. I'm so free. I'm so free. Silver walks, you used to shiver and I used to talk. Then we went down to Times Square, and ever since I've been hanging round there. In autostrada mi sentivo proprio bene. L'aria era fresca, la moto era scomoda ma docile. I copertoni nuovi avevano ancora attaccati dei resti di qualche adesivo. La sella era stretta e dura. Come mi è sempre successo con tutte le cose nuove, all'inizio ho avuto la sensazione che non fosse per me. Che avevo preso male le misure. Che forse i desideri, prima di essere assecondati, vanno, se non verificati, almeno analizzati. Poi però, mentre uscivo dal casello ed entravo in città, un'altra sensazione è arrivata, più dolce. Ed era che in fondo avevo fatto bene. Che quella moto magari l'avrei usata poco e male, che forse l'avrei tenuta meno di quanto si tengono in genere oggetti come quello. Che forse io non ero tagliato per quel tipo di mezzo di trasporto, o no, anzi peggio, lo ero stato, ma non lo ero più. Che forse stavo avendo una crisi di mezz'età anticipata, ma nonostante tutto c'era una cosa che vinceva sul resto. Mi ero fatto un regalo. E l'avevo fatto senza bisogno di vincere qualcosa, senza aver ottenuto una promozione sul lavoro, senza aver passato un esame brillantemente. Semplicemente sapevo che la mia ragazza sarebbe partita per 6 mesi e io avevo scelto di premiarmi. Questo mi ha sollevato Il fatto che mi fossi concesso una cosa come quella, anche se era una stupidaggine, solo per il fatto di avere voglia di farla, senza aver dovuto pagare un prezzo prima, fatta eccezione per l'assegno che avevo staccato al concessionario. Mi sono fermato ad un semaforo. Un ragazzino con uno scooter si è affiancato e ha iniziato a guardare la moto. Io facevo finta di niente, come se in realtà non fossi fiero del fatto che la mia moto nuova fosse oggetto di sguardi di altri. Ho dato un paio di colpi di acceleratore, distratti, così, per fargli sentire il rumore del motore quattro tempi. Il semaforo è diventato verde. Io volevo partire impennando. Invece ho lasciato la frizione troppo velocemente, il motore si è imballato e la moto si è spenta. Mi sono regalato una settimana di heli sci sulle montagne canadesi. Mauro, un alveare con tanto di api per il piacere di vederle posarsi sui fiori del giardino. E poi, ciao, sono Chiara, ho 20 anni. Sono un po' triste in questo momento e non sono neppure tanto presa bene a soldi. Credo che voglia dire che non ho tanti soldi, no? Essere presi bene a soldi. Ma ho visto una bella maglia rossa, costosa, e l'ho comprata. E poi Stefano, forse Stefano ha in testa tutti. Mi sono comprato la spada laser di Darth Vader. L'ho comprata anche perché avevo bisogno di averla e quando l'accendo mi sento un cavaliere Jedi pronto ad affrontare la giornata. May the Force be with you. Stefano, 800240024, andiamo a sentire Antonio da Livorno. Pronto Antonio? Ciao Matteo, sei un grande. Ciao, anche tu, non scherzi per niente Antonio. Che cosa ti sei regalato 2 mesi fa? Allora, senti, io sono d'accordissimo con te quando dici che quando uno si fa un regalo va a colmare un vuoto. Sì. Ed è proprio vero. Grazie tanto Antonio. Tanto è vero, sì? Che io 2 mesi fa, proprio di getto, ce l'avevo dentro che covava un po', Sì. Mi sono comprato un clarinetto, sono entrato in un negozio, e ho preso un prodotto medio, ecco, non certo. Volevo esagerare, anche perché poi mia moglie... Però sempre sta moglie. Comprali un cellulare, che l'era contenta. Me lo sono comprato, sì? E non solo, avendolo poi l'oggetto, sì? Mi sono iscritto ad un corso. Ah, ma perché non sai suonare il clarinetto tu, Antonio? No, assolutamente! Ah, c'era un dettaglio! Assolutamente! Non l'avevo... Però era un sogno che avevo dentro, da tempo, frustrato da anni. Mi sono iscritto ad un corso e già adesso, dopo 2 mesi... Suonicchio! Ma che cosa fai? Scale? Cosa fai? Beh, adesso stiamo facendo tutta la parte teorica, no? Sì. Il corso che mi ho scritto. Però già adesso qualche pezzo lo so fare. Tipo I Want the Single Machine In, tipo Summertime, che sono i pezzi più facilini. Sai fare Summertime? Sì, so fare Summertime. Ma Antonio, ma tutto questo entusiasmo, da dove ti arriva? Quanti anni hai? Io ce n'ho 47. Ce n'hai 47? Però tu chiami da Livorno, ma non sei di Livorno, però. No, non sono di Livorno, ma vivo da molti anni a Livorno. Lo immagino. Senti Antonio, io purtroppo ti devo salutare, però sì. La tua telefonata è la dimostrazione che c'è sempre tempo, giusto? Cioè, e soprattutto c'è sempre tempo per farsi un regalo, anche ma senza senso. Devi sapere che nella mia famiglia suonano tutti. Mia figlia suona la viola, mio figlio suona il basso elettrico. Ah, quindi... Per cui c'era una frustrazione latente. Immagino, eri proprio di rincorsa. Antonio, grazie mille, sì, buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. Adesso la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi invece siamo sotto un pergolato, direi. È un terrazzo, forse un giardino. Non chiedetemi perché, ma è il sud Italia questo. Un po' per la luce del sole, che se è di questi mesi è molto calda. Un po' perché ci sono dei dettagli, non saprei dire il motivo. Forse la marca dell'acqua che si vede in fondo al tavolo. Comunque c'è un terrazzo, ci sono un tavolo con sopra una coperta cerata per mangiare in legno, delle sedie da esterno in legno, e c'è anche un barbecue di quelli a gas, credo. Mio padre va pazzo per i barbecue così. Piuttosto che accendere una carbonella morirebbe proprio a gas, in modo che ci metti sulla salsiccia e poi va pronta. Direi che è una terrazza e quindi potrebbe essere il piano alto di un palazzo del sud Italia. Roberto Napoleone, 60 anni, la primavera in calza, la temperatura sale, sto arredando il mio giardino, Villa Claudia, Anzio, io sono qui. Vabbè, Anzio è centro Italia, primo, e secondo era in giardino e non era in terrazzo, quando la smetterò di tirare a caso sarà sempre meglio. Laura, mi regalo CD di musica melodica italiana. Qual è la musica melodica? Cioè, io so qual è il neomelodico, però la musica melodica... Fatemi un esempio, dai, la Corte, la Pausini è musica melodica. Tiziano Ferro? No. Tiziano Ferro? Sì, anche Tiziano Ferro. Tutto è musica melodica. La roba che mi esce adesso, Ramazzotti? Ramazzotti e musica melodica italiana. Bravo Matteo, quella moto è uno spettacolo. Siccome i folli chiaramente di moto me lo chiedono, la cilindrata è 6,90 enduro. Al Museo di Storia Naturale di Livorno ho comprato un gigantesco ragno nero e peloso del Perù. L'ho appeso in camera laddove la mia ex teneva il crocefisso. Mi sto regalando l'impianto per farmi la birra in casa. Ciao Matteo, 2 anni fa mi hanno detto che andavo in cassa integrazione e io in crisi, con i soldi e una famiglia a carico a 37 anni, ho comprato l'elicottero radiocomandato che non so ancora utilizzare. Effettivamente anch'io vorrei comprarmi un elicottero radiocomandato. Non ci crederai, ma io cambio una o anche due macchine all'anno, da quando ho 20 anni. Ora ne ho 46, di anni immagino. Sì, beh sì, certo, non di macchine, però siamo lì se sono due all'anno. E ogni volta mi invento qualche difetto per cambiarla, anche se nuova. Il 22 aprile mi sono comprato una Kawasaki, mi sono comprato il Rolex, un Rolex, non ne potevo più. Non ne potevo più di che cosa? 800240024 348 349 238 6666. Andiamo... dove andiamo? Maurizio da Pisa, pronto Maurizio? Pronto, salve. Ciao, come stai? Ciao, bene, bene. Senti, tu ti sei regalato che cosa? Io mi sono regalato una trasferta a Londra a vedere Inghilterra-Italia del 6 Nazioni di rugby. Di un mese fa? Un mese fa, sì. Il risultato è stato catastrofico. È stato terribile. Quanto è finita esattamente la partita, che non ricordo più? Vorrei dimenticarlo, comunque. 59 a 13. 59 a 13, che è una roba tipo... tanto a poco. Esatto. Senti, comunque è un'esperienza bellissima. Quanto è costato il tutto più o meno, Maurizio? Ma diciamo abbiamo approfittato anche per fare un giretto a Londra, diciamo un 500 euro. Ma compreso dell'ingresso? Tutto compreso. Alloggio per 3 giorni, ingresso, biglietto. No, siccome ero un po' invidioso, mia moglie e mia figlia si erano regalati la semifinale Barcellona-Inter a San Siro. Tu non volevi essere da meno? Non volevo essere beh, davvero. Certo, bei tempi quelli, quasi non me li ricordo più. Buona giornata Maurizio, grazie, grazie. Ciao, grazie, alla prossima, grazie. Io mi sono regalato una Spider d'epoca, un MGB del 1964. E poi paga sempre pantalone. Ecco, firmato Tom. Grazie Sebastiano. Senza dire niente a nessuno, mi sono comprato la moto dei miei sogni da bambino, Moto Guzzi 850 T5. Quando l'ho portata a casa tutti mi hanno tenuto il muso per giorni, ma io ero e sono felice. Tutti chi? Aspetta, ci provo. Tua moglie? 800240024. Andiamo da Marco da Milano. Pronto Marco? Ciao. Ciao, che cosa ti sei regalato? Io mi sono regalato un Volkswagen Maggiolino del 63. Wow, vetro piatto o bombato? Vetro piatto 6 volt. Ah, 6 volt proprio, ma con i fari ovali? Con i fari ovali, sì, bravo. Ma quindi bravo. È del 63? 63, ah ok, 63. Perfetto. Che colore è? È colore crema. Sì, e quanto l'hai pagato? Non te lo posso dire che mia moglie ammazza. No dai, ma sta ascoltando? No, vabbè, di no. Faccio una 7.000. 7.000? Sì. Una macchina che ha 40... Una macchina che ha tenuta molto bene. No, poi aspetta, va. Non me la devi vendere Marco, aspetta no, un secondo. Se vuoi, no, mai. No, anche perché la conosco, però del 63, quindi ha 40 anni. No. Del 63 ne ha 48. Ne ha 40, ah wow, e cosa fai? Ci vai in giro o la tieni in garage? Ci vado in giro, non dico tutti i giorni, ma settimanalmente sì, anche in ufficio. Benissimo, di solito la seconda domanda è dopo quanto l'hai pagato, quanto fa con un litro quella macchina? I 13 con un litro. Marco, grazie mille, buona giornata. Prego. Ciao, grazie. Ho comprato svariati CD dai cestone dei supermercati, senza sapere esattamente cosa fossero. Qua è proprio gente che ama la qualità della musica che ascolta. A 54 anni mi sono regalato una 999, sono regredito di 30. Mi sono regalato un bel paio di orecchini e un bracciale di brillanti. Comprato un Rolex, 4.800 euro, totalmente inutile. Lo dice lui, non lo dico io. E poi mi sono regalato una serata al night da solo, totalmente inutile. E questo SMS è l'unico che ha un tono, quello della mestizia. Andiamo in provincia di Trento da Piero. Pronto Piero? Ciao Matteo. Ciao. Anche per il programma, quando posso sempre. Che cosa fai Piero nella vita? Io sono un rappresentante. Diciamo un rappresentante perché in realtà cosa sei? Ok. No, prima facevo l'informatore scientifico medico, che non era un rappresentante, adesso sono un rappresentante. Non è la stessa cosa, scusami? No, è un po'. Cosa cambia? Cambia che prima in realtà non vendevo nulla, ma proponevo, cercavo di indurre gli altri a prestare. Ah, ok, va bene, ok. Fisicamente qualcosa. Ho capito, non lo puoi dire. Che cosa ti sei regalato, Piero? Io mi sono regalato una barca a vela. Ammazza, si guadagna facendo l'informatore scientifico? No, è usata, figurati, di seconda mano, è sotto i 10 metri. No, 6,50 metri, spesso 20 euro. Ma che barca è? È una barca a vela. No, ma certo, ma che modello di barca è? Ah, sì, dunque una barca polacca, si chiama... Ma alla cabina ci si può stare? Sì, sì, ha due cuccette davanti, due dietro, si sta in quattro, un piccolo bagnetto, un lavandino per lavarsi le mani. E tu hai famiglia? Sì, moglie e due figli. E quindi ci state in quattro? Ci stiamo in quattro, l'unico problema è che i figli non vogliono venire. Vabbè. Sono piccoli. Ah, ok. Senti, quanto l'hai pagata una barca di 6,50 metri? 9.000. 9.000, giusto, me l'avevi già detto. E poi sicuramente saranno almeno 15, così la moglie non lo sa. Piero, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie, sì, ci conosciamo. Gianluca, mi sono regalato una notte con un trans, si può dire? Beh, perché no? Certo che si può dire. Andiamo, ce la facciamo un'altra, sì. Andiamo da Paolo, da Bergamo. Ciao Paolo. Ciao Matteo. Ciao, tutto bene? Tutto bene, benissimo, grazie. Cosa ti sei regalato tu invece? Mi sono regalato un biliardo. Oh, ma un biliardo regolare? Biliardo sì, è vero, l'ho preso usato, era uno di quelli che usavano per fare le gare, quindi usato pochissimo, non ha vissuto in un bar, diciamo. Ah, bello, è come quando ti vedono la macchina che ti dicono, questa era esposta, quindi diciamo è nuova, esatto, semplicemente esatto. Poco utilizzata per salirci sopra. Esatto. E tu sapevi già giocare a biliardo? Sì, sapevo già giocare a biliardo, poi lo sport è stato in calo negli ultimi 10-15 anni, non esistono quasi più sale da biliardo e quelle che esistono sono i campi di patate, e allora me lo sono comprato così. Ma quindi hai anche spazio abbastanza in casa per... Sì, casa nuova, una stanza abbastanza grande, non so cosa farci, un biliardo prima ancora di un gioco è un mobile, quindi ci sta bene, l'arreda da solo. Ma tu sei da solo in casa però, Paolo? Sì. Non hai moglie e figli? No, non ho prole, non ho nessuno che mi può rinfacciare la spesa. Una spesa che è ammontata a quanto? Una spesa che è ammontata a 6,5. Wow, per un tavolo da biliardo? Sì. Ed è ancora che è scontato? Sì, ma poi vedi, i tavoli da biliardo una volta che sono a posto con i legni, che sono belli, il campo quando si sposta il biliardo va smontato interamente, quindi... rifanno tutto, il manto eccetera, viene rifatto sempre comunque ogni volta, quindi poi è sempre nuovo. Ma Paolo, e poi ti saluto, scusami, lo usi sto tavolo da biliardo? Certo, ho gli amici che mi dormono sul pianerottolo. Ah, ok, ecco, quello è un bel modo probabilmente per avere degli amici, un tavolo da biliardo o un calcio esatto. Balilla, una roba del genere. Paolo, grazie mille, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Mi sono regalato un viaggio a Legoland. Mattia, 10 anni. Ma esiste Legoland? Esiste Legoland, me lo dice Laura Faggin. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, hanno telefonato. Grazie a Pietro Lacorte, a Tiziano Bonini e a Laura Faggin. Vi dicevo all'inizio del programma, il 13 di maggio siamo al Salone del Libro. Non sarà solo però una puntata in diretta da là, non sarà solo una puntata a cui voi potete venire e partecipare alla diretta. Di fatto quello sarà la prima tappa di un tour di raccolta di racconti che io da qui a quel momento vi chiederò di scrivere. Non vi dico altro per il momento, semplicemente preparate una penna e un foglio, se scrivete con la penna, con il foglio, oppure la tastiera se avete voglia di farlo. La cosa è molto semplice, è una cosa alla fine simile a quella che io faccio tutti i giorni. È un diario, un piccolo diario, una pagina di racconto in cui voi mi raccontate un episodio della vostra vita che è realmente accaduto e che racconta meglio di voi, come dire, un racconto che racconta di voi. Io sono qui, @radio24.it, se ne avete e se volete mandarmeli, altrimenti se avete voglia di venire fisicamente, se siete a Torino e passate di lì, se invece non siete a Torino e avete voglia di venirci apposta, al Salone del Libro il 13 di maggio del 2011, è un venerdì, e alle 4 del pomeriggio, io e tutti gli altri, noi saremo lì. L'ultimo messaggio di oggi è che nel 2003 mi sono regalato un sogno, un viaggio in Norvegia in bici da solo a Oslo, a Capo Nord, una meraviglia, Giampi. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?